ormai la mia casa è piena di animali, ricci, abbiamo anche sul tetto una colonia di colombi, il disappunto dei vicini, io continuo ad aiutarli, per me aiutare gli animali è una cosa che mi fa sentire bene, no? Devo dire che non potrei mai più stare senza di loro, hanno questa immediatezza, no? Un rapporto diretto, immediato, semplice. Probabilmente non criticano, quindi accettano, ti accettano per quello che sei. E questo è stato importante, essere accettato per quello che sei. L'essenza di un rapporto, no? Accettare la diversità, accettare i difetti dell'altro essere. Però la tua professione è la professione di un veterinario. Spesso i veterinari non sono al servizio degli animali, sono al servizio delle persone che li ingaggiano. E l'ingaggio non è fatto sempre nell'interesse dell'animale, spesso è fatto nell'interesse del proprietario dell'animale che magari lo deve sfruttare o che magari se ne deve liberare perché è diventato un peso per vari motivi. Io sono contro l'eutanasia, non sono un credente, ma devo dire che il modo di vedere la vita si avvicina molto a un cristiano. Comunque credo che l'eutanasia sia proprio l'atto estremo ultimo quando non c'è proprio più speranza, quando c'è un'estrema sofferenza senza una possibilità. Fermo restando che con gli animali non si sa mai, perché io ho assistito a delle guarigioni straordinarie, quando non mi aspettavo che ci sarebbe stato un risultato. L'eutanasia l'ho applicata veramente pochissime volte nella mia vita e ho sempre sofferto tantissimo perché per me la vita ha un valore incredibile. Non mi sento autorizzato a sopprimere un animale, però mi capitò un caso di una mucca che era molto malandata, non si alzava più, aveva delle piaghe dappertutto, quindi piena di infezione, una mucca anziana, quindi non c'era speranza che si salvasse. Era in un allevamento a conduzione familiare, un allevamento molto piccolo di persone, devo dire, che trattavano questi animali come fossero quasi d'affezione. E mi ricordo quella scena di questa mucca che era fuori in cortile, non si alzava più, e io dovevo fare questa iniezione di Tanax, che è un veleno che si usa, prima però si fa una sedazione. E mi ricordo che questa ragazza le portò, prima di concludere la sua vita, portò a questa mucca un po' di cose da mangiare, no? Verdure, ha portato addirittura del miele e io, è una giornata di sole in cui io mi misi questi occhiali da sole, ma non per il sole. Vedevo questi occhi dolci di questa mucca, pensare di concludere la sua vita così e feci molta fatica e quando chiuse gli occhi, dagli occhiali uscivano quelle mie lacrime, ricordo di essermi girato, ma poi alla fine, perché nascondersi? Perché nascondere un dolore che uno ha? Mi era dispiaciuto veramente tanto. E lì quella fu l'ultima volta che sottopose eutanasia e devo dire che forse in quel caso, ma fosse stato per me non l'avrei fatto, l'avrei ancora curata. Io preferisco, questo lo ribadisco, e questo è un concetto cristiano, da non cristiano, è un concetto cristiano quello che esprimo. È quello di accompagnarli verso un'altra vita, accompagnarli cercando di lenire la loro sofferenza e magari stando vicino per quanto possibile, facendo tutto possibile perché queste creature non soffrano e anche perché magari sentono la vicinanza di qualcuno che ci tiene a loro, alla loro vita. Mentre quando lavoravo sui bovini non vedevo la morte direttamente perché tante volte gli animali morivano, io non c'ero, curavo ma non c'ero. Adesso con i ricci la vedo, la vivo in prima persona la morte, quindi li tengo in mano quando muoiono e questo è una cosa che mi fa dare ancora più valore alla vita, perché anche quegli ultimi momenti far sentire, forse un'idea romantica, ma probabilmente anche loro sentendo la presenza di qualcuno, sentendo probabilmente di non essere soli, sentendo, io credo che anche gli animali si rendano conto che noi stiamo cercando di fare qualcosa per aiutarli. Ecco, per me è importante accompagnarli verso questo passaggio, cercando di lenire il dolore, cercando di stare vicino. L'eutanasia la lascio proprio nei casi estremi. Ho deciso di collaborare con dei colleghi perché volevo cambiare il lavoro sui bovini, non ce la facevo più. Mi ricordo quel pomeriggio che un signore, un contadino, portò questi cucciolini, questi gattini piccolini, a far sopprimere a un collega. E E mi ricordo anche di avere così avuto da ridire con questo mio collega, perché in fondo erano animali, cioè l'eutanasia dal punto di vista etico e deontologico si applica quando l'animale soffre, che non ha più speranze, ma a un cucciolo non si può dire che sia una cosa giusta da applicare, perché è un animale che può vivere, quindi è un animale sano. E lui mi disse che se non l'avesse fatto lui, il contadino l'avrebbe fatti morire in maniera orribile, facendoli annegare o sbattendoli, dando. Quindi alla fine lui aveva trovato questa giustificazione, ma la colpa più grande la sentii su me stesso, perché in fondo avrei potuto prendere io questi cucciolini, avremmo potuto salvarli. Ma io ricordo sempre quella immagine o quel pianto di questi cucciolini e poi quel silenzio. Ecco, quello è una cosa che io mi rimprovero, un senso di colpa che ho, rimprovero a me stesso, al mio collega. Non è una cosa da fare mai, perché la vita è preziosa anche nelle piccole creature. Certo, sono animali, quindi la loro vita vale di meno per molte persone, non per me. Quindi ora come ora farei di tutto per salvarli. Che decisioni hai preso dopo aver vissuto questo episodio? Non rinunciare mai a salvare una vita. Aiutare gli altri comporta un sacrificio nostro grande, e tante volte non vogliamo fare questo sacrificio. Aiutare un animale ammalato, una creatura in difficoltà, comporta un grosso impegno. E io voglio prendermi questo impegno per le forze che ho, per le possibilità che ho. Però per me è diventato importante cercare di fare tutto il possibile per non solo salvare una vita, ma anche rendere una vita difficile di un animale disabile il più dignitoso possibile. Noi al Centro Ricci cerchiamo di fare tutto il possibile, anche a volte regalare un mese di vita, un sollievo, una cura che può comunque fare stare un po' meglio, un aiuto quotidiano in piccoli gesti quotidiani. Per me ha un valore enorme, proprio perché ogni attimo è prezioso. Ogni attimo della vita è prezioso, soprattutto nella vita degli animali, che hanno delle vite più brevi della nostra. Quindi per loro regalare un mese a un riccio è tantissimo. Cosa rispondi a quelli che ti dicono che questa attività, questo bisogno di salvare, questo bisogno di aiutare, questo rivolgersi poi ad altri animali deve sicuramente dipendere dal fatto che non abbiamo risolto delle cose nostre, che magari non abbiamo dei figli o che magari non ci siamo realizzati? Ti capita che te lo dicano? Assolutamente. E tu cosa rispondi? Rispondo che c'è un concetto sbagliato dell'amore. L'amore non è l'amore di serie A o di serie B, non è che l'amore per un altro essere, un essere umano, valga di più che l'amore per un animale. L'amore è amore. L'amore è dare a qualcuno senza voler niente in cambio. Questo per me è il concetto dell'amore. Quindi dare a un riccio, a un essere umano è la stessa cosa. Certo che tutti abbiamo delle carenze affettive. Ma meno male che ci sono le carenze affettive, vuol dire che abbiamo un cuore. Quindi noi passiamo, la vita non è perfetta, la vita di ognuno di noi non è perfetta, quindi passare attraverso delle difficoltà è normale. Queste difficoltà ti fanno capire, no? Quindi passare attraverso il dolore, passare dei momenti di solitudine è normale. Ma dare l'amore a un animale è esattamente come dare l'amore a un essere umano. Quindi per me esiste l'amore universale, che sia dato a un animale, a una persona. Quindi rispondo a quelli che mi dicono che riempio delle carenze affettive curando un riccio, dico che meno male che ho trovato i ricci da curare, che mi hanno fatto ricordare di avere un cuore, perché quando curavo i bovini forse quel cuore lì non c'era, o era così seppellito da una serie di altre cose di cui noi umani ci riempiamo la vita pensando che siano le cose importanti. Invece credo che bisogna cercare di ristabilire i valori veri. I valori veri sono quelli: al primo posto la vita, le relazioni con le persone, con gli altri esseri. E io trovo che con gli animali avere un rapporto di aiuto agli animali mi faccia stare bene, e questo per me è la cosa più importante. Stare bene facendo qualcosa anche di buono per gli altri, non solo per me stesso. Ma il ritorno che ne ho in termini di arricchimento spirituale di cuore, non ha prezzo rispetto a nessun'altra cosa. Io trovo che l'amore sia per me aiutare chi soffre, non importa chi sia, se è un essere umano, un animale. Io trovo che dare l'aiuto a chi soffre, sia la cosa che per me è più importante. Non riesco a pensare a me stesso. Quando vedo qualcuno in difficoltà, devo fare qualcosa, per cui non mi pongo neanche il problema, no? Quindi per me è correre in aiuto di chi soffre. Quindi non riesco a vedere me stesso pormi dei limiti. Per me non c'è limite. Quando vuoi bene, quando vuoi fare il bene di qualcun altro, non riesci a pensare a te stesso. Le persone che frequenti, che ti vogliono bene, che magari ti conoscono da anni, anche da prima di questo cambiamento, sono rimasti vicini a te o non ti capiscono? Molti si sono allontanati, forse li ho allontanati io. La frase ricorrente che mi dicono è: sei un estremista. E io rispondo, rispetto a che cosa però estremista? Rispetto al passare la mia vita pensando a farmi una vacanza, andare a passarmela in un supermercato la domenica o riempirmi la casa di cose inutili? Estremista rispetto a che cosa? Rispetto a un modo egoista di relazionarsi con la vita, no? Cioè pensare sempre a noi stessi. Allora, io penso, forse sono egoista anch'io, però facendo qualcosa anche per gli altri. Quindi per me dedicarmi ai ricci è una forma di egoismo che però mi fa star bene. Quindi preferisco essere considerato un pazzo e continuare a occuparmi di ricci che essere sano e perdere il tempo a fare le cose che fanno in tanti, che sono cose che secondo me non hanno un senso. Io credo che le persone debbano guardare più nel cuore, fermarsi un attimo e dare valore alla parte più importante di noi, che sono i sentimenti. L'uomo è un essere che ha bisogno, abbiamo bisogno di rapporti umani, non abbiamo bisogno della roba, abbiamo bisogno di rapporti umani. E rapporti umani, rapporti tra di noi e rapporti con le altre creature. Io cerco anche nel mio piccolo di portare avanti questo messaggio di amore per tutte le creature, di dedizione. Perché so che a me ha fatto bene e fa bene anche alle persone che lavorano al centro. È una sensazione indescrivibile, bisogna provare ad aiutare qualcuno e poi si capisce quello che è l'amore Com'è per te vivere una liberazione, no? Prima, durante la conferenza, spiegavi che insomma è una gioia, ma è anche un dolore, perché comunque sarebbe come liberare il tuo cane. vero. La liberazione è il nostro scopo. I ricci sono animali selvatici, voler bene a queste creature significa appunto restituire alla natura. Naturalmente c'è la parte affettiva, che però non deve essere predominante sulla parte, diciamo, altruistica, no? Quindi se tu ci tieni al destino di una creatura, allora il destino è quello di lasciarli andare. E allora per me è stata una lezione di vita, incontrare questo primo riccio, perché io non ho mai saputo lasciare andare nella mia vita, nei rapporti, quindi ho sempre cercato di trattenere per non soffrire. Invece adesso ho capito che vabbè, soffrirò un po', però so che quell'altra creatura sarà felice. E naturalmente c'è anche la preoccupazione di un papà, tra virgolette, che lascia andare un figlio, tra virgolette. In un contesto difficile, perché comunque dicevamo che l'ambiente non è più a misura di riccio. Di pericoli, per cui non sai mai se questa creatura che magari hai curato con tanta fatica, quindi sono battaglie anche che facciamo passando le notti, quindi c'è anche un coinvolgimento emotivo molto forte, quindi vedi queste creature, i ricci sono creature molto tenere, ti guardano con questi occhi dolci, hanno un senso di essere indifesi come tutti gli animali, in fondo, quando riesci a salvarli è una grande soddisfazione, però poi hai paura che magari il giorno dopo che li hai liberati possa succedere qualcosa ed è anche successo. Ma in ogni caso il valore della libertà è grandissimo e forse anche che vivono pochi giorni, però liberi e con una chance di rifarsi una vita è già una grossa soddisfazione per noi. Quindi alla fine prevale il pensare a loro. Dove li liberi? Li liberiamo possibilmente in posti naturali dove vivono già altri ricci, e questo è un indicatore che è un posto adatto, lontani da pericoli, da strade, da monocoltura, da posti dove usano veleni, pesticidi e possibilmente dove ci siano delle persone che abbiano voglia di dare una piccola mano, lasciare una ciotola di crocchette per gattini, lasciare una ciotola d'acqua, può essere un grosso aiuto, aumenta le loro chance di sopravvivenza, sono animali che che spesso vengono allevati da cuccioli, per cui non hanno abitudine a vivere in natura, per cui ci vuole un po' di tempo. Quindi aiutarli in questo senso può migliorare le loro prospettive di vita. A Quanto vivono? contatto con gli uomini molto poco. Studi fatti in Germania dicono che mediamente un riccio può vivere da 1 a 3 anni, proprio per una serie di pericoli che l'uomo crea, consciamente o non consapevolmente. Beh, incidenti d'auto sono tantissimi, si parla anche di 100-200 mila ricci morti ogni anno in Italia. Incidenti causati da giardinaggio, anche molti bruciati vivi, si dà fuoco alle sterpaglie, quindi i cespugliatori vengono tagliati, feriti, avvelenati con i pesticidi, gli erbicidi, i lumachicidi. Vivono molto poco proprio a causa dell'uomo. Se non ci fosse questo. Potrebbero vivere anche 7-8 anni. La morte dovuta ai predatori è una percentuale molto bassa, il 5-6%. Quindi potrebbero vivere tranquillamente 7-8 anni. Se avessero luoghi più naturali, se noi conservassimo prati, cespugli, boschetti. In cattività, un riccio per dire disabile che tu curi e che sta bene comunque, quanto può vivere? Selina, la nostra anzianotta che è morta 2 settimane fa con grande dolore perché era stata l'anello di congiunzione con Ninna, la prima riccia curata al centro, credo avesse sui 7-8 anni. Era arrivata moribonda, ricordo la notte passata con Flebo e aerosol per tirarla su. Mi ricordo che al mattino ebbe una ripresa pazzesca, quasi miracolosa. E poi però ci vuole un mese per rimetterla proprio in sesto completamente. Questa riccia ha vissuto con noi, noi abbiamo questo grande recinto in mezzo al verde, ha vissuto con noi felicemente per 3 anni e mezzo ed era bellissimo vederla perché poi se noi ci fermassimo a guardare la natura, quanto è bello il piccolo. Io ho imparato dai ricci. Quanto è bello fermarsi a guardare le piccole cose, no? Io la vedevo, noi abbiamo in questo recinto queste casette di legno, no? Col fieno dentro, ma lei prendeva il fieno dalla casetta e andava a farsi il nido sotto il rosmarino. Faceva questo bel nido, in mezz'ora la vedevi che girava con questi bocconi di fieno, poi saliva sulle casette per guardare il mondo dall'alto e la sentivo litigare con la ninna perché erano molto amiche, avevano avuto questo primo litigio, poi si erano stabilite le gerarchie. E però li sentivo spesso soffiare e allora capivo che qualcuno si era messo tra il tragitto tra la ciotola del cibo e il suo percorso. Per cui c'erano queste scene simpatiche che ricordo con nostalgia. Mi ricordo anche che quando liberai Ninna, Selina, tutte le sere dal rosmarino faceva questo percorso, andava ad aspettare Ninna davanti alla casetta. Aspettava che Ninna uscisse dalla casetta e non vi dico anche il dispiacere che ebbi quella settimana successiva alla liberazione di Nina, in cui Selina ogni sera andava dalla casetta di Nina a aspettarla. Credo che anche lei a modo suo le dispiacesse che Nina di non vederla più.